Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, versione brevissima. Oggi avete sentito l'intervento di Mario Monti. E allora di che cosa andremo a parlare? Del ruolo del consulente, del referente finanziario, che in questo periodo è di fondamentale importanza. Abbiamo un momento ancora molto delicato, ne abbiamo avuto una dimostrazione mercoledì in occasione del filo diretto con gli esperti del risparmio che abbiamo organizzato anche a microfoni spenti dopo il termine della nostra trasmissione. Abbiamo ricevuto decine di chiamate, i telefoni sono stati davvero bollenti, hanno continuato a squillare in interrottamente per due ore. I consulenti che si sono gentilmente offerti per questo servizio agli ascoltatori hanno dato consigli e spiegazioni a tutti quegli ascoltatori preoccupati e disorientati da un mercato che sembra sempre più incerto. I dubbi d'altronde li abbiamo tutti, dal piccolissimo risparmiatore a chi ha a disposizione somme molto sostanziose e ai più vari livelli del profilo di rischio. Ad accomunare tutte queste differenti realtà la necessità di affidarsi ad una persona che ci consigli e guidi nella gestione del nostro denaro risparmiato. Questa persona la possiamo incontrare allo sportello bancario, all'ufficio postale, si può trattare di un promotore finanziario, di un consulente indipendente. In ogni caso il suo ruolo è molto delicato, perché questa persona deve meritarsi la nostra fiducia, rispettare diritti e doveri, perché il futuro del nostro investimento è anche strettamente legato alle scelte che questo consulente fa. Allora, come sempre in questo campo ci sono, come in tutti, esperienze positive e negative. Lo sa bene Plus 24 del Sole 24 Ore, che continua a pubblicare lettere di molti lettori che raccontano le loro esperienze. Gianfranco Ursino, collega appunto di Plus 24, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Questo sarà uno dei temi che Plus affronterà proprio nella sua uscita, nella sua edizione di domani. E per parlare proprio dei rapporti con l'interlocutore, il consulente finanziario, nella fattispecie il promotore, abbiamo interpellato, invitato a Salva Danaio, anche Maurizio Buffi, presidente dell'Associazione dei Promotori Finanziari dell'ANASF. Presidente, bentornato, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, sì, abbiamo un microfono un po' che ci sembra addirittura in un'altra stanza. Ecco, adesso il nostro Fabio lo mette a posto. Allora, se volete potete chiamarci all'800 24 0024 per raccontarci la vostra esperienza, anche magari alla luce proprio delle dinamiche che il mercato ha avuto negli ultimi tempi. Avete interpellato spesso e volentieri il consulente finanziario? Che risposte vi ha dato? Vi siete sentiti rassicurati? Oppure nei mesi passati quali altri questioni avete dovuto affrontare nel vostro rapporto con il consulente? Per esempio, poi Gianfranco ce lo racconterà, uno dei problemi che possono capitare a prescindere dalla relazione e dalla consulenza di investimento si può verificare se magari un promotore finanziario passa da un'agenzia ad un'altra, da una società ad un'altra, oppure se per esempio addirittura intere reti di promotori finanziari passano da un'azienda ad un'altra. E allora lì è chiaro che il risparmiatore si sente un po' spaesato e non sa bene come gestire, non lo sa neanche il promotore, qualche volta figuriamoci il risparmiatore, come gestire la nuova situazione. Prima di parlare tutto questo, andiamo però in Borsa Italiana, perché vi voglio raccontare un'altra cosa. Borsa Italiana domani, anzi da oggi pomeriggio e domani, diventa Borsa Aperta. Ci facciamo raccontare tutto da Marina Forché Famiglietti, responsabile delle risorse umane di Borsa Italiana. Dottoressa, buongiorno, oggi per noi purtroppo il tempo stringe, siamo un po' più veloci del solito. Ci racconti tutto, che cos'è Borsa Aperta, che cos'è questo restyling delle Borse Italiane, ed è vero che sarà possibile anche per i cittadini poter visitare Palazzo Mezzanotte nei prossimi giorni? Buongiorno a tutti. Innanzitutto, dunque sì, Borsa Aperta sarà domani, questa grande iniziativa che ha già riscontrato molto successo dalle adesioni che abbiamo sin qui ricevuto, ed è di fatto un momento in cui la Borsa incontra i cittadini milanesi per mostrare di fatto gli interni del Palazzo Mezzanotte, così come sono il risultato di un lavoro di ristrutturazione che ha di fatto mirato a mantenere la tradizione del passato, ma a cercare l'innovazione, e con due finalità: sicuramente quella di valorizzare il Palazzo Mezzanotte, che è un palazzo storico importante per tutta la comunità milanese, e quindi restituirla un po' a tutti i cittadini con una continua valorizzazione nel tempo appunto dei valori artistici che in esso sono contenuti, ma al contempo anche di dare un'unica sede di lavoro a tutti i colleghi che lavorano nel gruppo borsa italiana a Milano. E quindi di dare anche qui replicando questo connubio tra la tradizione e l'innovazione, di dare degli uffici che siano, abbiano tutte le soluzioni funzionali ed ecocompatibili, ma che mantengano comunque il ricordo del passato che questo Palazzo Mezzanotte rappresenta. Il passato rappresentato dagli operatori che praticamente eseguivano gli ordini di vendita o li chiedevano l'esecuzione degli ordini di vendita o di acquisto su certi titoli attraverso le grida, adesso invece è tutto telematizzato, dottoressa Forché Famiglietti, e quindi si vuole anche un po' raccontare la profonda trasformazione che il mercato ha avuto negli ultimi tempi. A Palazzo Mezzanotte sarà possibile, prima lei diceva cittadini milanesi potranno visitare il palazzo, se qualcuno viene da Roma o da un'altra città però insomma gli aprirete le porte anche domattina. Sì, borsa aperta per tutti, devo dire, parlavo della cittadinanza milanese perché chiaramente è quella che più immediatamente potrà fruire insomma di questa iniziativa. Comunque al di là delle porte del palazzo si troveranno tutta una serie di mostre fotografiche che rievocano gli ultimi anni della storia economico-finanziaria che abbiamo vissuto e come queste sono state di fatto poi hanno avuto un riflesso sulla borsa, e nel contempo vi è un'opera artistica che invece rievoca quello che era un po' il rumore delle grida attraverso appunto proprio il movimento che i visitatori creano all'interno del parterre e che quindi dà anche proprio un po' l'emozione del tempo che era e che ora non è più, perché come giustamente sottolineava ad oggi è solamente un flusso di dati che corre tra i computer. Benissimo, la ringrazio, buon lavoro allora, e poi ci racconterà magari nei prossimi giorni che tipo di riscontro c'è stato da questa iniziativa. Buona giornata, dottoressa Forché Famiglietti. Magari sì, in due secondi perché ho proprio poca trasmissione. Ecco, invitiamo a prenotarsi chi vuole venire a borsa aperta. Benissimo, grazie molte, buona giornata, e noi andiamo subito al nostro argomento, Gianfranco Ursino, sennò qua non abbiamo più un attimo appunto per dedicarci al tema di Salvadanaio. Allora, il ruolo del consulente finanziario, il rapporto con il risparmiatore, un po' anche turbolento, ma non per colpa loro, negli ultimi tempi, perché in molti si sono anche un po' spaventati, chiaramente hanno dirottato tutta la loro emotività anche sul consulente. Come affrontate questo aspetto su Plus Domani? Noi affrontiamo questo aspetto in queste settimane dal punto di vista, diciamo, dei lettori, nel senso che il flusso, diciamo, delle lettere che ci giungono in redazione in questa fase di mercato un po' turbolente, oltre alla richiesta di capire quello che saranno le evoluzioni dei mercati, che qui però possiamo dare poche certezze in questa fase, e si concentrano per lo più sui dei reclami che ci pervengono dal punto di vista del lettore che si lamenta. Faccio dei casi concreti, del promotore che non riesce a trovare, quindi non sa come passare all'ordine di vendita, oppure dal promotore che non mi segnala che i miei investimenti stanno crollando, oppure tipo quello di domani, è proprio come accennavi tu prima in precedenza da Deborah, e si tratta del promotore che cambia casacca, quindi che si sposta da una città all'altra, il risparmiatore che tipo di tutela ha, che tipo di atteggiamento deve assumere. Quindi cerchiamo, partendo da dei casi reali, no, che ci segnalano i lettori, cerchiamo poi di dare delle indicazioni a tutti, perché poi alla fine queste problematiche si ripresentano proprio periodicamente, esatto, e soprattutto in queste fasi di mercato. Quindi, dottore Buffi, prego. Perché andavo subito alla considerazione che tu hai fatto, Gianfranco. Devo fare un ordine di acquisto vendita, vorrei posizionarmi in una certa maniera su un prodotto di investimento, non trovo il promotore che per due giorni non mi risponde al telefono. I più bravi che sono venuti a Salvadanaio recentemente, ai quali io ho chiesto se fosse stato un periodo particolarmente intenso nella relazione con il cliente negli ultimi tempi, soprattutto la scorsa estate, erano tutti in ferie, d'altronde era anche abbastanza ragionevole, gli scossoni sul mercato li abbiamo visti molto profondi ad agosto, e in molti mi hanno detto: beh, il buon promotore è quello che intanto non si aspetta di ricevere la telefonata dal cliente, ma è il primo a farla, quindi già cominciamo a dare un vademecum della buona relazione tra promotore finanziario e cliente. È il promotore intanto che deve telefonare, solo per vendere il prodotto per forza, ma anche per fare una buona consulenza. Direi che proprio questo è un tema su cui potremmo ragionare. Il bravo promotore, il bravo consulente, il bravo interlocutore è colui che si misura dai comportamenti concreti. Molto spesso in questi giorni abbiamo sentito richiamare i concetti della responsabilità dei comportamenti. Ebbene, se c'è una cartina di tornasole dove viene messa alla prova il rapporto fiduciario, che tanto si evoca peraltro, e sappiamo quanto è importante, questo dell'essere o anticipare addirittura in termini anche informativi il contatto con il cliente, è sicuramente un bollino da inserire nel un rating, come dire, da dare, certo, al promotore finanziario o al consulente che voi dimostra non avete di il rating vicino. Ma avete la certificazione comunque professionale. Beh, è una delle caratteristiche di cui andiamo assai orgogliosi, perché molti dei colleghi promotori e consulenti che operano quotidianamente sul mercato hanno ritenuto importante per qualificare le proprie competenze avere la certificazione, che in questo caso è quella che viene rilasciata dalla Fondazione EFPA, non è la sola, ma certamente è una delle più importanti. Quando un promotore cambia società, può in genere, come dire, far traslocare con sé anche la propria clientela? È una questione complessa di patti, di concorrenzialità appunto fra il cliente, la società dalla quale esce. Ma guardi, anche qui ci sono delle regole da seguire, evidentemente. Anche qui abbiamo tante volte fatto il richiamo delle regole. Bene, ci sono delle regole perché, per esempio, in funzione dell'anzianità che lega il promotore finanziario alla società per conto della quale opera, vi è l'istituto del preavviso. Il preavviso è quel periodo di tempo in base al quale si rimane all'interno del rapporto con la società che si intende lasciare in funzione dell'anzianità. Detto questo, è evidente che anche qui quel che vale è il comportamento. E allora il comportamento dovrebbe essere improntato alla massima trasparenza in termini di comunicazione, e per quel che riguarda il rapporto con la propria società, ma soprattutto per quel che riguarda il rapporto con la propria clientela, che il più delle volte, devo dire, in ragione del consolidato rapporto di fiducia intrattenuto in molti anni, se c'è questa profondità temporale, ma i dati ci dimostrano che è reale, segue il cliente, buona parte della clientela segue anche il promotore finanziario che approda in altre società, in altri contesti, in altri gruppi, dove ritiene evidentemente di poter dare alla propria clientela un servizio anche migliore. Certo, no, tra l'altro c'è anche un mercato piuttosto vivace da questo punto di vista. Stavo sorridendo rispetto alla considerazione del mandare ogni tanto in ferie anche un promotore finanziario, poveretto, anche lui non è che può prevedere sempre, dottor Bufi, presidente dell'ANAS, gli scrolloni di mercato e quant'altro, però quantomeno non tenere proprio spenti il telefono 15 infatti, giorni di fila. Infatti. Il tema è quello della rintracciabilità, non dell'andare o non andare in ferie. Poi certo, il nostro è il lavoro autonomo e quindi questo richiede anche, l'abbiamo detto poco fa, un senso di responsabilità. Evidentemente in periodi dove la criticità è massima, dove l'incertezza domina e regna sovrana, come dire, e ne stiamo constatando giorno per giorno appunto queste caratteristiche, l'essere rintracciabili è un segnale di attenzione al cliente. Quanti sono i promotori finanziari italiani, dottor Gufi? Operativi oltre 22.000. Però, una bella cifra. Se ne spostano in molti da una società ad un'altra, Gianfranco Ursino? Sì, spostano tanti, anche se c'è una certa... dalle statistiche emergono anche che vengono naturalmente monitorate dall'associazione. Penso che ci sia un turnover, diciamo, non è molto come elevato, l'abbonamento telefonico col mutuo, non è una professione portabile, insomma, c'è la portabilità. No. E con un po' il discorso anche da delle istruzioni operative, visto che la relazione che si instaura tra un cliente e un promotore è come quella che bene o male abbiamo con il medico, con il nostro medico, anche in questo caso quando il medico va in vacanza mi lascia un sostituto e quindi dovete chiedere, mi rivolgo naturalmente ai radioascoltatori, il momento in cui il vostro promotore, il vostro consulente va in ferie, di lasciarvi un recapito, un qualcosa da poter poi utilizzare per passare degli ordini di vendita oppure anche di acquisto mentre lui è in ferie. Perché poi uscire da un investimento in queste fasi turbolente dei mercati un giorno piuttosto che un altro può comportare appunto una variazione non irrilevante della performance del prodotto investito. Assolutamente, ma vorrei anche aggiungere che il promotore finanziario, nel momento in cui deve organizzarsi in modo tale da essere rintracciabile, poi può evidentemente contare anche su una struttura, su un'organizzazione che è di natura agenziale, che riguarda anche il rapporto con i colleghi, e quindi mi sembra un ottimo e condivisibile suggerimento. Nel momento in cui ci si assenta per un certo periodo di tempo e le ferie sono sacre per tutti, evidentemente, anche se mi risulta che in agosto siamo stati in pochi a farle, a dire sì, il vero, è vero. E quindi questa è una dimostrazione di, appunto, di responsabilità. È altrettanto vero che è una libertà di ciascuno di noi, certo, ma questo non deve ledere in qualche modo il rapporto di fiducia e soprattutto il rapporto professionale con la propria clientela. Aggiungo che anche qui non necessariamente si tratta di passare un ordine di acquisto piuttosto che di vendita, ma molto spesso noi riscontriamo che i nostri interlocutori, che magari ci conoscono da molto tempo, ma anche quelli che ci conoscono da meno tempo, nel senso che con i quali la relazione è più di breve periodo perché è nata da meno tempo rispetto alla media, ci chiedono semplicemente informazioni, pareri, considerazioni, magari per condividere anche uno stato d'animo che è per tutti difficile, evidentemente, perché non siamo esenti come persone, come professionisti, da elementi che tutti viviamo quotidianamente. Cioè la sensibilità anche di dimostrare questa vicinanza è una caratteristica è importante della relazione con la clientela. Importantissima, Gianfranco, tanto sì, che in questi momenti proprio è un modo per mettere un po' alla prova il rapporto di fiducia che si instaura, perché naturalmente proprio anche lì vedi la bravura che viene fuori, no? Il lato... Sono talmente d'accordo che, se mi è consentito aggiungere un'osservazione, noi abbiamo sempre detto, io ricordo di averlo sostenuto in tante occasioni, la fiducia non è un atto fideistico di per sé, è una disponibilità al confronto, alla delega, e va monitorata e va riscontrata, va messa alla prova. Ecco, l'abbiamo appena sentito dire dal Presidente del Consiglio: metteteci alla prova. Ecco, lo diciamo consapevolmente perché riteniamo di aver dimostrato, seppur ci sono evidentemente dei casi limite, per carità, li conosciamo anche noi, pensiamo di aver dimostrato di essere stati vicini e di essere vicini ai nostri clienti. A proposito di casi limite, lei li evocava, sentiamo allora quello che è successo a Rosa Maria da Genova. Adesso non un caso limite, chissà che il promotore che cosa ha fatto, però insomma gli ha suggerito un investimento che, come è successo a Rosa Maria, insomma, ha provocato delle vistose perdite a molte altre persone. Rosa Maria, ecco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, allora lei lo sa benissimo, il promotore è un signore che ha preso anche la laurea in maestro del lavoro, in cavaliere del lavoro. Ma il suo, Rosa Maria, non il... vi auguro, dico ai promotori, cioè a quelli che investono, di consultare Beppe Grillo, no, perché noi siamo a questo punto. Rosa Maria, sì, guardi, io ho poco tempo adesso, non ho... ci racconti che cosa le è successo, poi valutiamo magari un po', ecco, il suo caso. Adesso Beppe Grillo non c'entra niente stamattina. Aiutatemi. Pronto? Sì. Mi aiutate ad avere, come faccio a recuperare i miei soldi? In che cosa ha investito e che soprattutto Parmalat, quando già si sapeva che era in via di decomposizione. E mi è stato offerto da una banca. Ma è il promotore finanziario, stiamo parlando del promotore, ma non dello sportello. Capito, ma quando il promotore è dentro la banca, è un funzionario della banca, cosa dobbiamo fare? Abbiamo creduto, Va bene, Rosa Maria, grazie. Allora, adesso qui stiamo parlando di una relazione diversa con lo sportello della banca, il direttore, che è molto spesso la figura che ancora prima del promotore è quella alla quale ci affidiamo appunto per gestire i nostri risparmi, soprattutto quando magari non abbiamo moltissimi, e forse avvalerci della consulenza del promotore ci costa un pochino di più, quindi si va allo sportello e si subiscono queste situazioni. Detto questo, anche i promotori hanno suggerito molti investimenti in Parmalat, ogni tanto questo fantasma ritorna, Presidente. È vero, Buffi, non sappiamo... è un fantasma che ritorna, anche perché i dati ci dimostrano che tendenzialmente l'affare Parmalat, che ha così colpito oltre che i portafogli di tanti italiani e anche l'immaginario collettivo su questi temi della gestione e della durata del risparmio, in realtà è stato veicolato fondamentalmente dalle banche. Non perché io abbia niente nei confronti del sistema bancario, ma l'abbiamo appena sentita, la signora si riferiva a un rapporto che è nato all'interno della banca, e poi bisogna vedere se l'interlocutore svolgeva un ruolo da promotore. Mi sembra abbastanza strano, perché di solito avviene al di fuori. Era arrabbiata Maria Rosa, comprensibilmente, Maria, ecco. Comprensibilmente. E viceversa, la funzione del promotore è quella di assistere, di consigliare, di promuovere, di assistere, di suggerire, di monitorare nel tempo le scelte di investimento. Adesso, il più possibile consapevolmente. Molti promotori hanno l'opportunità di suggerire soluzioni di investimento che appartengono a più case di investimento internazionali, quindi non hanno più il vincolo legato ad una sola società, appunto, che confeziona e distribuisce fondi di investimento piuttosto che polizze vita e quant'altro. Però Marco da Treviso solleva un altro problema. Marco, buongiorno, rapidissimo perché poi devo chiudere, ma magari vi riproponiamo presto una trasmissione su questo. Marco, buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Vada alla domanda. La domanda è questa: i promotori nel 99% dei casi tenderà a vendere il prodotto a lui più remunerato. E questo è un dato di fatto, constatato in anni di esperienza, è un dato di fatto che a qualunque promotore, anche se psicologicamente le dice che fa gli interessi del cliente e segue i consigli dei clienti, sarà sempre tentato a proporre il prodotto a lui più remunerato. Certo. Faccio un esempio: se io chiamo un promotore e gli dico che ho una disponibilità da investire, se gli chiedo di investire in BTP, in un'obbligazione quotata nel MOT, in un ETF... certo, lui suggerisce un'altra cosa. Marco, devo salutarla, ma ho capito perfettamente. 10 secondi, Presidente Buffi, il conflitto di interesse. Il conflitto di interesse lo conosciamo e lo gestiamo e lo dichiariamo nei confronti dei risparmiatori. Fondamentalmente le tre parole sono un approccio alla pianificazione, una gestione del rischio e la consulenza. Come fa il risparmiatore a sapere se il consulente gli sta propinando il prodotto di investimento su quale lui guadagna di più? Facendogli domande. Ok, quindi sappiate che questo problema può esistere e prestatelo un po' su questo tema. Mi dispiace avervi avuto così poco, vi ripristino presto come abbinata per ritornare su questi argomenti. A lunedì.